24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Acqua. Senza acqua non c'è altro che polvere e desolazione. Ma con l'acqua c'è la vita. Controlla l'acqua e controllerai ogni cosa. L'oro blu, l'acqua potabile, il nostro bene più prezioso, comincia a scarseggiare. Entro i prossimi 10 anni metà della popolazione vivrà in condizioni di stress idrico. Stiamo parlando della gestione dell'acqua. L'asta è aperta! Signore, l'acqua non si vende, è di tutti. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo. Sarà il grave problema che può portarci a una guerra. Non possiamo accettarlo, dobbiamo reagire. L'acqua è un bene comune e deve rimanere pubblica. L'Autorità per l'Energia, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato le nuove tariffe per l'acqua. Per la prima volta si è utilizzato un metodo tariffario unico in tutto il paese. Naturalmente si parla di aumenti, che sarà mediamente di quasi il 4%. Varata anche una riduzione del 10% per circa 6 milioni di utenti. E moglie, questa come la pago? Metodo tariffario unico. Si dice però l'acqua in realtà costa in modo diverso da regione a regione, con una differenza che va fino al 400%. Ecco, Guido Bortoni, che è presidente dell'autorità per i servizi idrici. Dottor Bortoni, l'autorità, l'abbiamo detto, ha stabilito un criterio, si dice, omogeneo per il calcolo delle tariffe. Però non è così, perché il rincaro coinvolge 34 milioni di italiani, mentre altri 6 milioni di italiani pagheranno meno. Com'è possibile? Dunque, il rincaro delle tariffe è sicuramente dovuto al rilancio degli investimenti in questo settore, sì. Settore che è composto da acquedotti, fognature e depurazione. Soprattutto nella depurazione, quindi sugli standard dell'acqua rilasciata nell'ambiente a fine uso, noi siamo assolutamente indietro come paese e stiamo per ricevere delle infrazioni dall'Europa. Ecco, ma dottor Bortoni, se alcuni pagheranno di più, altri di meno, dov'è l'omogeneità? No, quelli che pagano di meno, in realtà quei 6 milioni che diceva anche il servizio, sono di quegli ambiti che non hanno inviato i dati necessari per approvare una tariffa, quindi c'è stata una penalizzazione del 10% su quegli ambiti che non hanno avuto la possibilità o non hanno dato i dati per fare la tariffa. Ecco, dottor Bortoni, ma se ho capito, in pratica i cittadini serviti dalle aziende meno virtuose si vedranno la bolletta diminuita. No, questa è praticamente una sanzione, nel senso che su quegli ambiti non è finita con questo giro tariffario. Avremo sicuramente, stiamo facendo dei controlli, delle ispezioni, delle sollecitazioni per arrivare ad avere questi dati e approvare una tariffa omogenea pro investimenti anche in quegli. Ma intanto pagano meno. Intanto pagano meno, ma il problema è che non si facevano gli investimenti in quel momento, non si fanno, e quindi è stata fatta, tra virgolette, una penalizzazione. Ma una penalizzazione che riporta a pagare meno, vorremmo essere tutti penalizzati così. Una penalizzazione dell'ente d'ambito, non dei consumatori. Cioè, sostanzialmente noi siamo con i consumatori di quegli ambiti, li facciamo pagare di meno e mettiamo, tra virgolette, in sofferenza quel gestore che non ha consentito di avere delle tariffe che facciano degli investimenti. Senta, dottor Bortoni, l'acqua è un bene pubblico essenziale, può essere anche un business che crea profitto per chi lo gestisce, non c'è niente di male, è così? Dunque, l'acqua è un bene comune, ma il servizio erogato ai rubinetti nostri è un qualcosa che ha dei costi industriali. Certo. Quindi dobbiamo assolutamente remunerare quegli investimenti e quei costi operativi che consentono di portare l'acqua ai nostri rubinetti, ma poi soprattutto di smaltire le acque reflue riportandoli a standard ambientali. Sia che siano pubbliche che siano private. Questo assolutamente per noi non fa differenza la proprietà. Senta, ma ricerche recenti, abbiamo sentito anche il Papa che lo dice, le risorse idriche mondiali rischiano di esaurirsi, lui dice addirittura di provocare guerre. Ecco, ma è un allarmismo oppure c'è questo pericolo? No, a livello mondiale c'è una scarsità molto importante d'acqua, sta nascendo, ci sono zone del pianeta Perché? Che è perché ci sono degli altri usi, ci sono degli accaparramenti di questa risorsa che non viene, come dire, rilasciata per gli usi della cittadinanza. Ma in quali zone sono le più come dire, colpite da questa situazione? Sicuramente l'Africa. L'Europa è ancora una volta salva da questo punto di vista. Senta, in Italia circa il 30% dell'acqua comunque va sprecata a causa delle perdite nel sistema. Ma il sistema perde sempre. Perché? 30% è tanto. Guardi, una tipologia di investimenti che abbiamo visto essere la più gettonata nella nostra approvazione tariffaria è l'ammodernamento degli impianti, proprio per ridurre queste perdite del 30%. Siamo al fanalino di coda. Gli ultimi, insomma, in Europa. Quasi ultimi. E quindi le ragioni alla base del rincaro delle tariffe sono queste. Assolutamente, ammodernamento degli impianti, investimenti in depurazione e fognatura e rimessa a nuovo di quelli che sono i servizi anche di misura all'utenza dell'acqua. Dottor Bortoni, tasse in Italia se ne pagano tantissime e non bastano mai. Non dovrebbe essere in qualche modo la fiscalità generale già a coprire i costi delle infrastrutture, non un rincaro ulteriore dell'acqua? Guardi, i due pilastri con cui si fanno investimenti nel settore idrico sono fiscalità generale e tariffe pagate dagli utenti. Negli ultimi anni... In che proporzione? Negli ultimi anni le dico questo, nell'ultimo decennio abbiamo avuto la fiscalità generale che non ha più contribuito a fare infrastrutture, quindi ci siamo fermati. Da 3 anni a questa parte, da quando abbiamo preso le nostre competenze tariffarie, abbiamo cominciato a mettere una tariffa al servizio degli investimenti. È chiaro che la fiscalità generale deve ritornare a fare la sua parte per lo sviluppo dell'infrastruttura. Attraverso quale strumento? Per esempio ci sono strumenti nuovi, idrobond, project bond, che potrebbero anche sollecitare il risparmio pubblico locale dei cittadini per finanziare in parte queste infrastrutture. Ecco, dottor Bortoni, ma se un cittadino smette di pagare la bolletta, il servizio che fa? È interrotto? No. No, ci sono tutti dei meccanismi garantisti per evitare che in caso di morosità dell'utente ci sia un distacco immediato. Certamente bisogna trovare delle soluzioni affinché non ci siano, tra virgolette, i furti, perché quel 30%, 30-33% di perdita dell'acqua, una fetta importante è furto. Ecco, un'ultima cosa, ma andiamo verso una privatizzazione prevalente dell'acqua o una pubblicizzazione? Guardi, oggi il settore, se consideriamo gli enti locali, eccetera, è pubblico per il 90-92%. Quindi non è un problema. Non è un problema assoluto. 800-24-0024, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Ecco, Paolo Carsetti rappresenta il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Ha sentito questa differenza dei prezzi dell'acqua a seconda delle regioni. Dottor Carsetti, quali sono gli scopi del Forum? Gli scopi sono quelli, diciamo, di contrastare i processi di privatizzazione del servizio idrico che in Italia ormai sono stati avviati fin dalla seconda metà degli anni 90. Ecco, ma lei ritiene, dottor Carsetti, che sia in atto un nuovo tentativo di privatizzazione dell'acqua? Di fatto sì, perché sia con il decreto Sblocca Italia che anche con alcune norme previste dalla legge di stabilità si intende raggiungere lo stesso obiettivo che si era preposto il governo Berlusconi nel 2009, sconfitto dal referendum, ovvero far diminuire progressivamente la partecipazione degli enti locali nelle aziende che gestiscono il servizio idrico attraverso processi di aggregazione. Ecco, lei dice che nello Sblocca Italia ci sono delle norme che bypassano il risultato del referendum? Sia nel decreto Sblocca Italia, ma direi soprattutto nella legge di stabilità. Quali norme? Quali? sono appunto processi, diciamo, che si incentivano, processi che favoriscono aggregazioni tra le aziende, perché l'obiettivo che si è preposto il governo è quello di costruire dei cosiddetti player nazionali che possano competere sul mercato. E questo perché a voi non va bene questo? Perché si tratta di fatto di una privatizzazione, perché queste grandi aziende andranno a far confluire su di esse soggetti, gestori che sono ad oggi ancora pubblici, con quindi una conseguenza di fatto che è la privatizzazione per tutti quei territori che oggi ancora non hanno gestori di stampo privatistico. Ecco, ma dottor Carsetti, però in Italia le aziende che forniscono l'acqua mi sembra che siano più di 1600, in qualche modo non sarebbe logico ridurle anche accorpandole? Ma se noi andiamo a vedere i dati, diciamo, i soggetti che hanno gestori che hanno una maggiore efficienza e che forniscono una migliore qualità del servizio sono quelli medio-piccoli, ovvero che hanno tariffe più ridotte e investimenti più grandi. Perché sono più radicati sul territorio? Perché sono più radicati sul territorio, perché permettono anche ai cittadini un rapporto più diretto e perché col gestore, hanno anche una maggior consapevolezza di quella che è la distribuzione della risorsa idrica, e perché si muovono secondo logiche che non sono appunto quelle finanziarie delle grandi aziende come quelle multinazionali quotate in borsa. Certo, però gli investimenti per mantenere o migliorare gli acquedotti sono investimenti significativi, quindi le dimensioni piccole forse non li favoriscono tanto. Bisognerebbe andare a vedere i dati, ed oggi ci dicono che gli investimenti sono calati nel momento in cui si sono avviati proprio processi come questi, quelli di costituzione di grandi soggetti. Quando la gestione era ancora pubblica negli anni 90, con tutte le storture e limiti del caso, si investivano 2 miliardi di euro l'anno. Dopo il processo di privatizzazione appunto avviato a fine anni 90 si sono ridotti di 2/3, e allora non ci possono ancora venire a raccontare che aggregazioni e privatizzazioni aumentano gli investimenti, perché i dati parlano, diciamo, di un al contrario. Ecco, ma l'acqua però è un bene pubblico ovviamente, ma non è anche un servizio che comunque va pagato, perché se no gli investimenti non si possono fare. Certo, questo sicuramente, perché è una, diciamo, è un bene pubblico, è un diritto umano come ha sancito l'ONU, e che quindi va pagato. Il problema è che non deve diventare la fonte di profitti per pochi. Certo. Ad oggi questo modello gestionale e di copertura dei costi tramite esclusivamente la tariffa ha dimostrato tutti i suoi limiti, e quindi andrebbe completamente ripensato, anche con l'intervento ripensato come? Intanto che cosa succede se un cittadino smette di pagare la bolletta? Di pagare la bolletta, diciamo, si avviano processi che arrivano anche al distacco del servizio idrico, e questo in effetti è un po' un limite anche tutto italiano, perché non c'è di fatto una regolamentazione nazionale, ma si lascia carta bianca ai vari gestori di mettere in campo. Cioè ognuno fa come vuole sostanzialmente. Ognuno fa come vuole, e si arriva addirittura a staccare il contatore. Oggi, in una situazione in cui la crisi economica ha creato condizioni di disagio, e anche rispetto alle fasce deboli che non riescono a saldare alcune bollette, bisognerebbe anche appunto regolamentare in modo che comunque venga mantenuto un minimo vitale, quindi si possono inserire dei riduttori di flusso, certo, piuttosto che asportare i contatori, ecco, in maniera dissennata. Mario, ma la guerra per l'acqua davvero? È possibile? Sì, certo, sì. E la geopolitica dell'acqua sta diventando una disciplina dove si spiegano perché succedono. Soprattutto in Africa, dice. Direi, certo, in Africa sicuramente, però guarda che l'acqua potabile è un problema anche in altre regioni che uno pensa siano evolute. In California, ti faccio un esempio, c'è un problema gigantesco. Arizona. Parliamo degli Stati Uniti d'America, certo. Ci sono intere zone del pianeta che hanno un rischio di desertificazione molto alto, senza voler fare allarmismi, sì, e così via. Vabbè, però insomma è un problema vero. È un tema. Posso dire una cosa? Sì. L'importante è non trasformare la questione della gestione dell'acqua in una battaglia ideologica, certo, perché se no non se ne esce. Certo. Io penso che sia un bene pubblico e dovrebbe gestirlo il pubblico di conseguenza, con l'aiuto dei privati nel certo caso. Il vero tema, sono esempi virtuosi in entrambi. Esatto, in entrambi, no? I casi. Allora, sì, il vero tema è il giusto prezzo, sì, questa cosa qua. E esatto, poi bisogna tener conto di una cosa, che tu non puoi farla pagare a chi non ha denaro. E cioè, infatti, questo è infatti, il punto fondamentale del della servizio questione. Minimo. Il servizio minimo per chi non può pagare. Senti, c'è un sacco di gente che non può pagare. E in Sicilia, lei, Pietrangelo, com'è l'acqua? Quella dell'acqua in Sicilia è una storia particolare e assurda, come tutte le cose di Sicilia. Pensa che c'erano i fiumi perfino navigabili. Fino al 1940 c'erano i fiumi navigabili che dall'entroterra portavano al mare. E poi è la terra dei laghi, è la terra dei fiumi, è la terra ricchissima di acqua raccontata e cantata nei secoli. Adesso è diventato invece il luogo dell'arsura. E l'acqua è diventato, senza appunto andare a vedere gli esempi di Africa, dell'Arizona, della California, a maggior ragione in Sicilia, il luogo proprio del mercato nero in assoluto. Non è nient'altro che un fiorire di rubinetti vuoti, secchi, tubature spaccate, e un dominio totale proprio sull'acqua, perché è l'argomento su cui si strozza a maggior ragione la gente. Ecco, Emiliano Occhi è l'amministratore unico di Italia Ambiente. Dottor Occhi, Italia Ambiente ne parliamo perché è indicata come un'azienda modello, ma modello perché? Beh, innanzitutto siamo un modello perché garantiamo sempre inutile, siamo sempre inutile, facciamo gli investimenti previsti dai piani degli investimenti, siamo vicini al territorio. Vicini alla gente, vicini al territorio, sì, cosa esatto. Vuol dire esattamente? Per esempio abbiamo sportelli in ogni comune, cosa che ormai quasi nessuno fa. E poi innanzitutto anche i sindaci, gli assessori, i tecnici delle amministrazioni comunali possono interagire direttamente. Cioè io ho una perdita d'acqua sul territorio, vi chiamo e voi in tempo reale intervenite? Esatto, interveniamo subito. Noi abbiamo dei contratti di servizio molto stringenti, dobbiamo intervenire in pochissimo tempo, ma le dirò di più, a volte lo stesso sindaco può chiamare direttamente anche me, o il direttore generale, ma siete un'azienda pubblica o privata? Totalmente pubblica, abbiamo un modello di gestione con affidamento in house, quello molto vituperato, ma siamo in house. Senta, sì. Ma è privato, cosa cambierebbe? Poco o niente? Ma guardi, io non faccio una differenza pubblico-privato, io faccio differenza di efficienza. Efficienza, inefficienza. Noi siamo efficienti. L'unica cosa che posso dirle in più rispetto al pubblico è che noi non abbiamo dovere, diciamo, di dividere utile con dei soci. Certo. I nostri soci sono i comuni, i nostri utili vengono continuamente reinvestiti. Cosa vuol dire? Che una volta che io garantisco il servizio, la qualità e gli investimenti, io sono a posto. Qual è il vostro bacino di utenza? Perché essere vicini al territorio vuol dire essere anche piccolo, grandi a sufficienza per avere un rapporto diretto? Esatto, noi forniamo 12 comuni, 44-45 mila utenze e 100 mila abitanti. Già questo numero di circa 100 mila abitanti ha dimostrato di poter garantire efficienza. Io credo che nel servizio idrico integrato, così come nella raccolta dei rifiuti, superare l'ambito provinciale si rischia di perdere invece quei benefici. Cioè diventa una struttura lontana, un'azienda lontana dall'utente. Sì, oltre diciamo 100.000, diciamo più o meno oltre 100.000 abitanti, lei dice. No, noi siamo 100.000, io direi 400-500.000, ecco, direi le dimensioni di una media provincia. Rischia di non avere più questi benefici dati dall'iniziale aggregazione rispetto ai piccoli comuni. Ecco, ma la politica del governo però è orientata invece a favorire accorpamenti di dimensioni molto più ampie, è così? Questo è quello che è sempre avvenuto negli ultimi anni, diciamo che a me e sta avvenendo anche adesso. Infatti mi spaventa la prossima legge di stabilità, perché sembra che daranno degli incentivi ai piccoli comuni per diciamo disfarsi o far aggregare le loro aziende, ecco. Magari dando degli sgravi sul patto di stabilità, diciamo, ecco. Prendendoli per la gola, sì. Questo mi paurisce un po'. Senta, però l'accorpamento al contrario non sarebbe utile per ridurre consigli di amministrazione, quindi l'influenza della politica è un risparmio da investire nel miglioramento del servizio? Guardi, sa cosa incide il costo del consiglio di amministrazione di Emilia Ambiente? È lo 0,14% del fatturato. Quindi se vogliamo dire la verità alle persone, io direi appunto di dire la verità, nel senso che noi diciamo la grosse verità. Aziende, sono le grosse amministrazioni statali dove ancora si fa il discorso dei costi massimi dei costi di amministrazione. E dico che appunto Emilia-Ambiente è lo 0,14%. Potrebbe essere una soglia, un modello da prendere. Dice pubblico o privato che sia, quello deve essere il valore, l'incidenza dei consigli di amministrazione. Ecco, sì. Ma lei crede che la fiscalità generale dovrebbe provvedere al mantenimento delle strutture oppure devono essere investimenti delle singole aziende? Guarda, la fiscalità generale ha dimostrato nel tempo di non funzionare. Non funziona. Non funziona, e lo vediamo adesso nel discorso del dissesto idrogeologico. La fiscalità generale, non vengono fatti gli investimenti, non vengono fatti gli interventi, le città vanno sott'acqua. Vent'anni fa, nel servizio idrico integrato, eravamo nella stessa situazione. Si è deciso di pagare non più con la fiscalità generale, ma con la tariffa, gli investimenti. È ovvio, e questo lo dice anche l'autorità per energia, la tariffa non può coprire tutto. Certo. In casi di gravi disfunzioni, in territori particolarmente disagiati, ecco, cosa bisogna fare nazionale per i territori appunto disagiati, che non possono permettersi l'onere degli interventi? Chi paga gli interventi? Qui hanno sempre pagato purtroppo i cittadini, nel senso che i costi delle inefficienze, come sempre, ricadono sui cittadini. Dottor Rocchi, però, sì, la sua azienda fa parte di quelle che hanno avuto rincari delle tariffe oppure no? Certo, noi abbiamo avuto dei rincari. Perché? Ma io non li chiamerei rincari. Aumenti tariffari. Beh, aumenti. Insomma, tra aumento e rincaro. Sì, ma, io che la pago, sembra... per me è un rincaro. Sì, certo. Ma ecco, noi abbiamo avuto un 6%. 6%. All'anno, benissimo. Diciamo, ecco, però chi è servito da aziende più virtuose si vedrà aumentare le tariffe. Chi è servito dalle meno virtuose se le vede scontare. Io non riesco a capirla questa cosa. È successo, ma non è difficile, non è da capire. Sì, ma non è proprio così. Nel senso che le aziende che vedranno una riduzione delle tariffe sono quelle aziende che non hanno comunicato i dati. Quindi se io non comunico i dati che sono più inadempiente, e guadagno. Intanto no, hanno avuto, appunto, per non alzare le tariffe, per non creare un illecito guadagno proprio alle società, diciamo incapaci, chiamiamole incapaci. Inadempienti, si è stato bloccato addirittura, diminuita la tariffa. E quindi i cittadini ci rimettono, le società meno efficienti hanno lo sconto. Fino a quando non entreranno quelle nuove società a gestire il servizio, i cittadini non pagheranno di più, perché sarebbe invece sbagliato se dovessero pagare di più per non avere gli investimenti. Nel momento in cui, a poco punto, penso che interverranno i prefetti, interverranno il governo, interverranno le regioni, quando partiranno gli affidamenti fatti con il nuovo metodo tariffario, potranno partire gli investimenti. A quel punto si alzeranno le tariffe. Va bene. È inutile alzare le tariffe e non partire con gli investimenti. Io penso che questo sarebbe un danno per i cittadini. Beh, Emilia-Ambiente è un esempio virtuoso, così sembra. Romano da Modena. Sono buongiorno, qua. Buongiorno. Allora lei, buongiorno. Anche lei racconta una storia virtuosa, no? Dunque, io direi di essere uno dei virtuosi per quello che riguarda l'economia dell'acqua. Dica. Perché ho interrato una cisterna da 1 metro cubo, sì, e ho fatto delle deviazioni alle gronde per recuperare l'acqua piovana. E allora? Ciò nonostante, il gruppo ERA, che è una società per azioni che provvede... Vabbè, adesso non l'abbiamo al telefono, quindi non può replicare. Mi dica il fatto. Sì, va bene, d'accordo. Manda delle bollette falsate, cioè ti ripropone dei metri cubi che sono già stati pagati. È un giochetto che lo fanno specialmente. Vabbè, è un'accusa, è un'accusa pesante questa. Bisogna, sì, è poi, pesante, bisogna sentire il gruppo ERA a cui telefoneremo. Sì. Oltretutto, mi hanno installato recentemente un contatore che ha 5 caselle, 4 su dei riquadri e l'ultimo su un rettangolo. Il rettangolo, fatto le prove, sono centinaia, quindi decimali di metro cubo. Invece mi viene sempre calcolato. Quindi lei dice, insomma, dice che questa società gli fa dei conti sbagliati. Noi lo verificheremo se lei ci manda 349-238-6666 il dettaglio della sua situazione, noi la gireremo all'era. Grazie. Intanto ci sono molti SMS su questo. Posso dire una cosa? Sì, cioè, certo. È paradossale che chi non fa gli investimenti, no? Sì, poi di fatto venga in qualche maniera premiato. Non premiato. Ah. Hanno provato a dare una spiegazione, ma non è chiara. No, è chiaro. Io ho capito la ratio, però diamine, cioè qua alla fine c'è un principio di eguaglianza dei contribuenti rispetto a una cosa che si chiama acqua. Non è proprio. Non c'è dubbio. Insomma, secondo me questo è un caso molto interessante. Infatti ci torneremo sull'acqua, perché l'acqua è veramente è una cosa all'italiana. È una cosa all'italiana. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Cosa c'è? Un aeroplano e cinque nuvole, una radio accesa, cantano parole a caso. Qui da me un equilibrio instabile, al di qua della mia finestra trema. Poesia sotto la pioggia, Pietrangelo? E non so se è poesia, però era ben strano che stamattina in metropolitana c'era tutto un vagone pieno di supereroi. Ne ho contati almeno sette in un solo vagone, però avevano la faccia del supereroe normale, poi ognuno con la propria borsa, con lo zaino, con le proprie cose, le proprie facce, le espressioni, e c'erano appunto cinque nuvole in cielo, un aeroplano e poi la musica negli angoli e una confusione, la fretta di tutti che dava emozione e poesia nella fissità di uno sguardo. Mi sono concentrato su uno di questi supereroi con tanto di mantello, che era fermo nella fissità del suo sguardo ed era come una monade che, attraversandola, svelava e rivelava il che cos'è che non si trova più. E cosa? Abbi pazienza. Pietraggio, cosa? Per dirla con gli indiani, il nulla che ti porta ad attraversare la volontà del trovar tutto e lo scoprire il niente. Che bello. Vai con le tue bolle. Andiamo di bolla. Troppo su. Sì, troppo su per poi noi. L'alto. Via Tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai come Fallina, come antifurto per esempio. Ah, i grandi amici miei. Vabbè, la supercazzola. E qual è? L'Italistan, l'Italicum, chiamatelo come volete. È tutto molto fantastico, meraviglioso, unico, soprattutto molto italiano. Allora, il Quirinale ha fatto un comunicato per dire cosa? Che Napolitano resta certamente fino a tutto il semestre europeo. Che finisce? Il 31 dicembre. Ah, ecco. Ora, quindi, tu immaginati, no, la gioia. Resta fino a tutto il semestre europeo e dunque nessun problema. 31 dicembre, okay. Ve lo ripeto, così lo capite tutti. Allora, il tempo in realtà è passato da un bel pezzo ed è passato per l'unica riforma che dovevano fare veramente, cioè quella della legge elettorale, perché almeno uno sa che se si vota con una certa regola e non più, diciamo, con delle incertezze, visto che c'è una sentenza della Corte Costituzionale, ripeto, che ha detto che il porcellum non va più bene. E allora, ultima ideona, siccome non riescono a mettersi d'accordo sui tempi delle elezioni, questo è il vero punto, allora si fa l'Italicum. Poi lo si congela, lo si mette in frigo, in freezer anzi, e si aspetta che il Senato venga abolito. Nel frattempo, io ricordo, servono altre tre letture, quindi dovrebbe passare del tempo. E se la legislatura, io faccio la domanda, come si dice, no? Un po' così. Retorica. E se la legislatura va a carte 48 prima, che cosa succede? Tirano fuori l'Italicum dal freezer? Fanno le elezioni con una legge nuova? Ma dai, disastro. Voto Antonio, italiani! Dai. Andiamo avanti, va. Qua proprio, vabbè, Phil Collins. Another Day in Paradise, un altro giorno in paradiso, ma soprattutto se è fiscale. Questa è una notizia grossa, Giovanni, che ha enormi implicazioni. Io l'ho girata sul mio amico Juncker, perché Germania, Francia e Italia hanno scritto al commissario UE per l'economia, il francese Moscovici, chiedendo un impegno all'Europa, ovviamente, a varare nuove norme contro i paradisi fiscali, quelli di Juncker, in sì. Europa. La cosa appunto divertentissima, è siamo al paradosso dei paradossi, è che il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, era anche il primo ministro che in Lussemburgo dava il riparo fiscale, certo, alle multinazionali di tutto il mondo. Quindi ieri aiutava a eludere le tasse, oggi dovrebbe combattere gli elusori. C'è da credergli? Beh, fenomeno colossale. Salamino! Così finiva, così, io lo sapevo, ve lo dico da tantissimo tempo ormai ed è terribile doversi dare ragione, ma lo sapevo che andava a finire così, perché dalla Mara Carfagna si arriverà alla Mara Keplero, dalla C alla K. E c'è una sostituzione in vista nel Comitato delle Pari Opportunità in Forza Italia. Allora, la storia la conoscete. Silvio Berlusconi asseconda sempre di più i tempi nuovi. Ha fatto il suo selfie con Dudu, con la fidanzata, con Vladimir Luxuria. E dopo tanti anni lui fa proprio il consiglio che gli diede Vladimir Putin, quando disse che se Silvio fosse stato omosessuale non sarebbe finito nei guai. E siccome è ancora una volta la parabola dell'apparenza inganna, ve lo ricordate, quella strepitosa commedia francese per cui per cavarsi dei guai bisogna fingersi in un altro modo, insomma è finita l'epoca della bellezza e Mara Carfagna rischia, perché entra Mara Keplero, che è una star di mucca assassina, già ritratta in un selfie con Francesca Pascale, e dopo essersi fatto la foto con Vladimir Putin è finita che il cavaliere, ritratto con Vladimir Luxuria, ha imposto un nuovo stile. Ora, se non fosse per questioni di età, lui stesso varcherebbe il Rubicone, ma l'opposizione interna ed esterna. L'Italia profonda e ancora viva, che grida il proprio slogan femminile di tutta Italia, unitevi, canta con De Gregori, con testo di Checco Zalone, la canzone che tutti ci unisce. Solo perché non vi piace la patacca. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, ma sao, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere. Sara, la quota rosa oggi dove va? La quota rosa, se potesse, andrebbe sempre a Parigi, però, visto che l'ha chiesto, oggi va da Peppa Pig, perché lei è la regina incontrastata della classifica stilata da Microsoft. E lei l'ossessione degli italiani nel 2014. Peppa è più cliccata di Belen. È la morte dell'Eros, mi chiedevo stamattina, oppure è la ricerca dell'autenticità con i rutti di Peppa? È la fine della donna ostentatamente sensuale o stanno cambiando i gusti degli italiani all'insegna del più pilu per tutti? Cosa ne pensate voi che ci ascoltate? 349-238-6666. Io sono Peppa Bocca. Questo è mio fratellino Pippo Bocco. Chi sta da Bocchi mamma? E chi sta da Bocchi mamma? Vabbè, qui si sta esagerando. Questa è una gentile concessione di Pietrangelo. Sì, si sta esagerando. Senti, Sara, tu avevi detto che avevi di aver preso un impegno sui Marò. Abbiamo letto un'intervista del ministro degli esteri Gentiloni. Dei Marò non ne parla. Domani ci torneremo. È un lapsus freudiano, secondo me. Ci torneremo. Pubblicità. Mix 24. In canzoniere. Te sulle corde lidie talor piangendo invoco. a ciò mio fiamme estinguere io possa almen per poco. E te, Necarmi, o tenera fanciullo, ignor io chiamo, che al par di te, fra lagrime, son disprezzato ed amo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, ancora una bolla? Una bolletta. Una sì. Bolletta. L'acqua. Vedi qua. In Germania, no? Questi sono i Kraftwerk, che sono stati un gruppo che è stato un punto di riferimento per la musica elettronica. Vabbè, ma non voglio divagare sulla musica, che sai che mi piglia molto. Mi prende moltissimo. Mi prende moltissimo. Parliamo di Schopenhauer o Schopenhauer, insomma, sempre per la serie che da quelle parti non scioperano mai, mica siamo come in Italia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, sfatiamo un mito. Segnalo che i piloti della Lufthansa sono al secondo giorno di sciopero, che i giorni senza decollo finora dall'inizio dell'anno sono stati 9, che sono rimasti a terra gli aerei a corto e a lungo raggio, che tutto questo accade nella potente, grande, efficiente Germania, dove la Lufthansa ha cancellato 1750 voli. Quindi scioperi dappertutto, scioperi ovunque, non solo da noi. No, adesso non esageriamo nel denigrare l'Italia. No, non siamo messi bene, ma neanche gli altri poi sono così bellissimi da vedere. E noi ci sentiamo ancora l'ultimo salamino di Pietrangelo. Il Fidelio scrive oggi sul Corriere Paolo Isotta, in un bellissimo paginone centrale, è l'opera più celestiale mai scritta. Il capolavoro di Beethoven apre la stagione della Scala di Milano, fu diretto da Herbert von Karajan ed è, urge sottolinearlo, il più potente documento artistico contro il terrore giacobino. E quindi lo ripetiamo con le parole di Isotta: contro il terrore giacobino che si tenta di contrabbattarlo siccome partito rivoluzionario. L'unica cosa che posso dire è godetevi la musica, ma ricordate con Beethoven, con Isotta e con Piero Buscaroli, che ha scritto il libro più completo sul compositore tedesco, che la rivoluzione giacobina è stata la più perversa macchinazione contro l'uomo mai escogitata. Prima della domanda, un'ultima cosa, una segnalazione agli ascoltatori. Leggete pure un'opera sottaciuta, misconosciuta e occultata di Alessandro Manzoni. Il titolo: La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859. Leggete, così vi libererete di questo dogma della professor rivoluzione francese, che è peggio di Benigni. E il professor Buttafuoco. Mamma mia! Però io ho una domanda per il professor Buttafuoco. Dai, dica. Professore, posso? Ma dai. Professore, non lo sono più. Professore, professore, abbia pazienza. Chi sono i giacobini oggi? Perché io... Così. Chi sono? I giacobini oggi, chi sono? Dunque, è presente, per esempio, il popolo del web? Hai presente i conformisti, quelli del pensiero unico? Giornalismo collettivo. Hai presente tutti quelli che vanno al riflesso condizionato? Tutti quelli che dicono, ho un progetto. Ho un progetto. E chi te lo paga? E soprattutto i piritolli. Il piritolli. Senti, qui abbiamo un altro piritollo, che è Gianluca, che dice, ma se io, che sono un aitante trentenne, volessi incontrare Sara Tardelli, come potrei fare? Potrebbe il trittico, cioè noi tre delle meraviglie, aiutarmi? No, io dico, guarda, sta attenta perché il fidanzato è gelosissimo. Quindi no, poi non bisogna può che stacchi essere il biglietto. Incontrata. Però stacchi c'è il anche, biglietto, scusate, c'è però l'energia, c'è anche, c'è sempre quel discorso. Insomma, un po' di sana scuola cortese ci vuole. Va bene, allora lui cortesemente cortesemente può non dovrebbe scrivere queste cose. Ah, va bene, ecco. Ok. Allora, lo hanno chiamato l'eroe borghese, perché era un uomo normale, pacato, dedito al suo lavoro, che viene ucciso brutalmente l'11 luglio del 79 da dei sicari della mafia. È Giorgio Ambrosoli, il commissario liquidatore della banca privata di Michele Sendona. Ed è il 9 gennaio del 79 quando riceve questa telefonata. Pronto? Pronto, l'avvocato? Sì, buongiorno. Buongiorno, e allora? Allora, ho Catoguzzi qui, ma non mi sa dire cosa dovrei fare io. Come, non ce l'hanno detto? No. Non gliel'hanno detto? No. Ma è impossibile, per me mi è stato detto questo qua, di andare a Nuova York. entro 3 giorni. Lei deve telefonare a chi sa e passare i documenti. Capisce perché entro 3 giorni lui non ci fanno l'estradizione o no? Gli avvocati a lei non ci hanno detto niente. Di andare a New York? No. Non gliel'hanno detto? No. Sono dei figli di puttana. E io ho l'impressione che devo cominciare di loro. Loro dicono che devo cominciare da lei, io invece comincio da loro, questa massa di buffone e cornute. Ma andare a New York a far cosa? Ci vuole la sua persona, dato che lei è curatore fallimentare. Sì. Dell'avvocato, avvocato come cazzo si chiama? Sentore, l'ho spiegato. È assolutamente assurdo che prenda, vada in America a far cosa? Ma si incontra con lui. Beh, una telefonata veramente, veramente tremenda, inquietante. Dopo il giornale radio, Marina Milone racconterà la sua storia realizzata su un'inchiesta di Alberto Poti. Vuoi, cioè, una davvero? Notizia? Sì. No, è meravigliosa, la devo dire. Allora, c'è una nota di Palazzo Chigi, informale, diciamo, classica velina, fatta sapere alle agenzie, che dice che non c'è stato nessun contatto tra Renzi e il maestro Muti. Sai che si dice che Muti è uno dei candidati al Quirinale, quindi ormai sta venendo fuori di tutto. Sta bollendo, noi avremo un Natale straordinario. Bene, su questo. E intanto noi chiudiamo con Vinicio Capossela, Resta con me. Resta con me questa sera e balla ancora, danza con me questa sera, spogliami ancora.